A tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, dunque si gioca stasera a Firenze, dove l'Italia conta di staccare con un largo anticipo il ticket per gli europei di giugno. Si gioca soprattutto da venerdì sera in poi, perché Lega e ECI hanno trovato l'accordo su questa vertenza che aveva bloccato la prima giornata di campionato. La domanda, una delle domande è: ma che cosa è cambiato in queste due settimane di trattative dopo la rottura? Qual è stato il punto di svolta, visto che sinceramente dalle scarne dichiarazioni dei protagonisti non lo abbiamo capito? Cioè, non è che per caso, come io personalmente ritengo, non è stato fatto alcun passo avanti sostanziale da due settimane fa a oggi, ma c'era allora la volontà di rompere e c'era adesso invece la volontà di superare gli ostacoli? Lo domando a Nicola Forte, collaboratore del Sole 24 Ore e di Radio 24, e particolarmente versato in problemi fiscali. Buongiorno Forte. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ripeto, ho cercato, mi sono sforzato di metterci un po' d'attenzione sia alle parole di Beretta che a quelle di Tommasi, ma in particolare direi a quelle di Beretta, perché insomma, da lì era venuta la vera rottura un paio di settimane orsone. A parer suo, che cosa è cambiato di sostanziale per cui due settimane fa non si poteva giocare e adesso invece si può? Ma l'impressione è che ci sia stato uno sforzo di volontà da entrambe le parti, ma che nella sostanza ci sia stato poi un rinvio dei problemi. Non a caso non si parla di accordo definitivo, ma si parla di accordo ponte, quindi sostanzialmente un accordo avente durata temporanea, con l'intesa da entrambe le parti di rimettersi intorno a un tavolo e a ridiscutere sui problemi sostanziali. Sono anche stati aperti dei tavoli tecnici, sono stati effettuati già incontri istituzionali con i rappresentanti del governo, proprio perché questo accordo ponte dovrebbe in sostanza fare da apripista a quella che sarà una riforma più completa. Ricordo che i problemi erano nati sostanzialmente per l'articolo 7 che determinava o ha dato luogo in passato, secondo i calciatori, a quello che era il cosiddetto mobbing sportivo, cioè la necessità sostanzialmente di equiparare tutti i giocatori in termini di preparazione, che giocatori che dovevano avere a disposizione tutti gli stessi mezzi, ma poi il problema, come lei ricordava, si è spostato per effetto della cosiddetta manovra sul contributo di solidarietà che dovesse gravare, quindi è un problema che si è aggiunto e che dovrà poi a regime essere risolto. E su questo, sul fatto che questo contributo almeno temporaneamente sia sparito, perché poi mi pare che la situazione economica generale del paese non è certamente migliorata rispetto a due settimane fa. Oggi, che sembrava una giornata di recupero, mi sembra che negli ultimi minuti, nell'ultima mezz'ora, stia rischiando di ridiventare drammatica, quindi poi ne parleremo. Ancora un passo interlocutorio prima di arrivare a questa tematica. Quando si parla di accordo ponte, io credo significhi della durata grosso modo di 9-10 mesi, insomma, cioè per fare questa stagione. Io credo dovrebbe significare, almeno in teoria, che c'è tempo, 10 mesi, per sistemare una volta per tutte e in via definitiva questo accordo, appunto, perché non sia più un ponte ma diventi terraferma. Sbaglio o noi ne sentiremo riparlare tra 10-11 di questi mesi, oppure secondo lei stavolta c'è davvero la volontà e c'è l'impegno di arrivare preventivamente a trattare l'argomento? Concordo sulle sue preoccupazioni. Accordo ponte vuol dire in effetti un accordo transitorio che ci consentirà agli atleti di iniziare regolarmente la stagione, e poi se le parti troveranno un'intesa, riusciranno a lavorare bene, si inizierà immediatamente. I segnali ci sono in questo senso, l'incontro recente avvenuto appunto con le istituzioni ne dà ampio spazio, il Sole 24 Ore di oggi, sembra appunto che tutto vada nella direzione giusta, cioè non si sta facendo passare del tempo inutilmente, ma già oggi si inizierà a lavorare. Certo che arrivare a un accordo definitivo nel giro di 11-12 mesi sarà piuttosto complesso, anche perché se sul tavolo si collocano tutta un'altra serie di problemi, come la riforma della legge 91, la legge sugli stadi, la legge sulla tutela dei marchi, e sostanzialmente facciamo viaggiare in parallelo diciamo una serie di provvedimenti piuttosto sostanziali, ci aggiungiamo anche la necessità di arrivare a un accordo definitivo, è certo che la sfida è molto impegnativa, c'è il concreto rischio che non si riuscirà a arrivare a un accordo definitivo per tempo. Dicevo che sì, insomma, la vera cosa sostanziale che è cambiata in queste due settimane è che è sparito, ripeto, temporaneamente per il momento, il contributo di solidarietà. Allora, lei che è un fiscalista in particolare, insomma, noi sappiamo, no, credo che nella contrattualistica nazionale ci sia una sola categoria in cui si parla di netto e basta, che è sempre stata quella dei calciatori. È una tradizione, non so quanto amena, non so quanto no, in linea con i tempi, non so, però quando si dice che un calciatore guadagna X, quell'X è netto e non è mai stato contemplato come lordo. Qual era il motivo del contendere esatto di questa vicenda, che può tornare attualità nel caso in cui ci fosse bisogno di nuovo di pensare a rimettere le mani famose nelle tasche degli italiani? Ecco, partirei proprio da questo spunto. Giustamente dobbiamo esprimerci al condizionale, perché la manovra cambia giorno per giorno. Anche oggi il Sole 24 Ore, appunto, si esprime al condizionale, c'è stato un recente vertice dove si parla di nuovamente reintroduzione di questo contributo, sia pure in forma leggera, e poi dobbiamo appunto pensare che dobbiamo immaginare che al di là di questa manovra, da qui a X mesi ci potrebbe essere comunque la necessità. Sì. Quindi direi che, a mio modo di vedere, l'esperienza negativa maturata in questi mesi dovrebbe essere sfruttata, utilizzata proprio, non dico nell'accordo ponte, ma nel contratto definitivo per regolare questi aspetti. Da dove nasce il problema? Il problema nasce proprio da una clausola presente nel precedente contratto collettivo, in particolare l'articolo 4, titolato retribuzione, che così disponeva: la retribuzione deve essere espressa all'ordo, salvo la facoltà delle parti, quindi società ed atleta, di specificare, oltre all'importo lordo, anche il corrispondente netto. Sì. In tale ultimo caso, se l'intesa tra le parti medesime è intervenuta sull'ordo o sul netto. Questo che cosa vuol dire? Che se le parti si sono accordate semplicemente sull'ordo e non sul netto, gli atleti subiranno gli effetti economici negativi di eventuale introduzione di nuovi balzelli, sì, contributi o altro. Se io mi sono accordato per una retribuzione lorda di 3 milioni di euro, del netto è 1.500 euro, se interviene una nuova tassa il netto diminuisce, e questo è a carico dell'atleta. Se invece, possibilità che in base al vecchio contratto superato, le parti hanno scelto di accordarsi sul netto, e sostanzialmente mi sono accordato con la società dove sostanzialmente ho detto la società mi deve comunque retribuire 1.500.000 euro nette. Perché questo era. Questo è in buona la maggior parte dei casi, dei contratti. E a questo punto direi che se il contratto è formulato in questi termini, almeno ritornando appunto alla situazione che si è generata in quest'estate, eventuali incrementi dell'IRPEF, oneri tributari, inevitabilmente rimangono a carico della società, perché la società, certo, deve garantire una retribuzione che assicuri comunque all'atleta quel 1.500.000 euro. Vista questa situazione di incertezza, ecco, questi aspetti dovranno essere, a mio modo di vedere, oggetto di attenta valutazione delle parti, sì, certo, e dovranno discutere e prendere una decisione in modo che non ci siano motivi di contrasto o, certo, equivoci in futuro. Certo, dobbiamo fare un breve intervallo. Mi rimane una domanda per lei, poi dottor Forte. Subito dopo l'intervallo per il traffico, vi ricordo che, per l'appunto, dopo questo intervallo cambieremo argomento, veremo al calcio un po' più agonistico, un po' più giocato, un po' più di personaggi, ma insomma io credo che sia un buon tentativo quello di provare a capire perché davvero in 2 settimane tutto sia cambiato, perché in realtà nulla cambiasse, no? Alla maniera del costume più profondo di questo paese. Adesso sentiamo come va sulle strade. In attesa, vi dicevo, del calcio giocato, un'ultima domanda al dottor Nicola Forte, che riguarda, io le ho inviato ieri un carteggio sul contratto di Bojan, perché a parer mio rappresenta un paradigma, cioè della complessità contrattuale che oggi c'è nei rapporti tra calciatori e società. Vogliamo riassumerlo? Sì, sostanzialmente è un contratto che nella sostanza, a prescindere dagli aspetti formali, sembra più assomigliare a un prestito che non a un vero trasferimento, perché sostanzialmente la Società Sportiva Roma si impegna a versare al Barcellona un corrispettivo di 12 milioni di euro da pagarsi entro il 1 luglio 2013, ma è prevista sostanzialmente una prelazione, una clausola attraverso la quale è previsto appunto a favore del Barcellona un diritto di opzione per riacquistare il diritto alle prestazioni sportive, quindi nella sostanza vuol dire riacquistare l'atleta, certo. o più correttamente il contratto, sì. che può essere esercitato facoltativamente, quindi lo sceglierà il Barcellona al termine della stagione 2011-2012, ed obbligatoriamente, nel senso che obbligatoriamente deve essere esercitato questo diritto, e quindi sostanzialmente avrò un trasferimento obbligatorio al termine della stagione 2012-2013. Ma se la Roma volesse continuare a valersi ancora delle prestazioni sportive di questo atleta, lo potrà fare, perché è previsto un diritto di controopzione, quindi un ulteriore diritto di opzione a favore della Roma. Per quale ragione, io dicevo, sostanzialmente è un'operazione che sembra più assomigliare, anche se noi formalmente abbiamo delle cessioni di contratto, ad un prestito. Perché se noi andiamo a considerare l'operazione nella sua interezza, nella sua complessità, noi, salvo il caso in cui la Roma non eserciti il nuovo diritto di opzione, avremo che al termine della seconda stagione sportiva 2012-2013 l'atleta tornerà al Barcellona. Ma fermiamoci al primo anno, sì. cioè anno 2011-2012, al termine del quale il Barcellona decide di esercitare il diritto di opzione. Verserà nelle casse della Roma 17 milioni di euro. In sostanza, la Roma paga 12, incassa 17, ho un differenziale positivo di 5. Nella stessa stagione è previsto un ingaggio, un costo della retribuzione dell'atleta a carico della Roma di 3 milioni e 2, 5 meno 3 milioni e 2 sono 2 milioni e 8, la Roma di fatto avrebbe risparmiato, considerando nella sua complessità tutto l'operazione, 2 milioni e 8, questo è il primo anno, sì. utilizzando, avvalendosi delle prestazioni sportive di questa atleta. Quindi capisce, sì. è più assomiglia a un prestito, salvo certo. poi vedere gli effetti finali, ovviamente. Certo. È una storia della, non so, questo Bojan mi ricorda, non so perché, ma in base a questo contratto così complesso, la vicenda della sora Camilla, no? Che tutti lo vogliono, poi nessuno lo piglia, e poi invece forse tutti lo vogliono pigliare, ma dal contratto certamente non si capisce. Dottor Forte, la ringrazio. Grazie a lei. Della sua partecipazione. Noi chiudiamo questo collegamento. Ci sono più cioè ci sono già parecchi di voi che premono sull'800240024, però io prima ascolterei qualche frammento che arriva da Coverciano, perché è vero che c'è una gran voglia di campionato, assai più che di nazionale, lo dimostra la stessa Firenze stasera con una mobilitazione molto ma molto frenata, anzi con una non mobilitazione per questa partita contro la Slovenia, ma è vero che rimane pur sempre un match point, ed è vero anche che proprio Prandelli, insomma, fiorentino d'adozione, si è adoperato in queste ore per vedere di mobilitare, se non la piazza, insomma, perlomeno di riscaldare un tantino gli animi. Sentiamo Prandelli su questo match point con la Slovenia. Abbiamo il primo match point, sappiamo di avere tutte le possibilità, Sarebbe veramente un sogno, una cosa fantastica festeggiarlo qua, dove io ho vissuto 5 anni meravigliosi. Io sono sempre più convinto che questa è la strada che dobbiamo percorrere. Una strada dove ovviamente ci sono tante incognite, e troveremo tante difficoltà, ma abbiamo la consapevolezza e anche, secondo me, un po' di presunzione. L'ho detto ai ragazzi, io sono convinto di vincere questa scommessa, perché i giocatori hanno attitudini per poter fare le due fasi. Abbiamo giocatori che, se riescono a migliorare i tempi di gioco, possono essere imprevedibili e possiamo anche non dare riferimento. E io sono convinto che, strada facendo, con più partite, con più ore di allenamento assieme, possiamo solo che migliorare. Ovviamente la strada è lunga. Beh, sembrava ci fosse stata una scorciatoia nei primi giorni d'agosto, con la tradizionale amichevole del pre-Ferragostana, con questo successo sulla Spagna, campione del mondo, e quindi, però non si era, in genere si tende in quei casi a dimenticare che non sono date così probanti quelle, tant'è vero che la prima controprova è stata invece la partita di venerdì scorso nelle Faroe, dove insomma, con tutto rispetto per i dilettanti isolani, insomma, che l'Italia debba vincere questa partita per 1-0 con un gol in fuorigioco, con un rigore negato netto agli avversari e con due pali degli avversari stessi, beh, insomma, diciamo che questo ha subito raffreddato quegli entusiasmi che erano nati un mese prima in maniera un po' tanto prematura. Andrea Lapinarolo fa notare il fatto che molte squadre abbiano fatto il calciomercato negli ultimi giorni è in realtà l'unico motivo dello sciopero. L'accordo era stato definito a dicembre, non 2 settimane fa. È vero, Andrea, ma poi era stato definito in linea di massima a dicembre, con l'intesa riparlarne prima dell'avvio della stagione. Poteva essere stato interpretato allora come un accordo ponte. Ecco perché prima col dottor Forte dicevo: ma non è che poi questo accordo ponte, sulla base già di quello cui lei fa riferimento, quando sarà ora che insomma, di essere, quando dovrà essere trasformato in accordo definitivo, resterà appeso. È un rischio da correre. Un altro ascoltatore domanda, vista la materia trattata prima dal nostro interlocutore, che fine potrebbe aver fatto Marco Bellinazzo. Molto, molto semplice e molto piacevole anche, nel senso che sta per convolare a giuste nozze nel giro di pochi giorni, da qui a domenica. E quindi da qui, insomma, il giusto risparmio, no? Di una pedina così, così preziosa. Andiamo avanti con la nazionale e restiamo su questo nuovo corso che Buffon, nuovo ormai mica tanto perché Prandelli è subentrato da un anno, però Prandelli aveva ereditato macerie e questo non va mai dimenticato, ma macerie fumanti, macerie pesanti. E mi pare che questo sia il frammento in cui Buffon ricorda, per l'appunto, sottolinea come tutto sommato questa, non dico rinascita, ma insomma ricrescita sicuro, sia maturata in tempi ragionevolmente brevi. Se abbiamo intravisto qualcosa di buono, se sembriamo una squadra e se sembriamo un gruppo affiatato e una squadra che prova a giocare a calcio, e penso che forse per la nazionale è la prima volta, nei miei 15 anni, nel quale si prova realmente a imporre, il proprio gioco con una fitta, rete di passaggi, credo che molto merito vada all'allenatore che abbiamo, che realmente ci ha portato tantissima serenità e ci ha permesso e ha dato modo a tutti di lavorare con grande entusiasmo e grande convinzione, dovuto al fatto, insomma, anche che le sue idee sono idee, secondo me, molto importanti e che lui conosce benissimo. Io devo dire che ce l'ha trasmesse con tanta semplicità. È un bel elogio questo del lavoro di Prandelli, anche perché è fatto da capitano della nazionale, quindi arriva da una fonte particolarmente autorevole. Sì, qualche ascoltatore fa notare, per esempio Dario da Carimate, ma anche parecchi altri, che prima il nostro fiscalista ha, insomma, 5 milioni meno 3 e 2 fanno 1,8 milioni e non 2,8, ma insomma, credo fosse sottinteso. Io non ho non ho interrotto perché insomma era un banale calcolo numerico, ma dava l'idea, comunque il concetto rendeva l'idea di quale può essere, di quale era il senso dell'operazione. C'è una ricaduta di Socrates, tornato, sapete, il grande giocatore brasiliano che fu protagonista del mondiale dell'82, che insomma, uno degli ultimi ad arrendersi in quella sfida indimenticabile persa contro l'Italia nel giorno di 3 gol di Rossi. Socrates era già stato ricoverato per ragioni per eccessi alcolici e un paio di settimane fa ne sembrava uscito, e invece le ultime notizie che arrivano da San Paolo del Brasile parlano di una ricaduta a questo punto ancora più preoccupante. Qui parliamo di calcio del passato, c'è invece il portiere dell'Hannover, se parliamo di calcio del presente, che è ricoverato in ospedale per una grave forma di depressione e che evidentemente è una malattia che può colpire anche le persone apparentemente privilegiate, che spesso in particolare proprio quelle categorie va a colpire, ma qui il discorso si farebbe lungo, un giorno o l'altro lo facciamo magari perché riguarda molti, è un caso che riguarda molti, molti personaggi dello sport, e potremmo chiedere aiuto agli esperti di Nicoletta Garbone di Essere e Benessere per cercare di capirne un pochino di più. I vostri interventi in diretta subito dopo l'intervallo per i mercati. Come promesso, i primi interventi in diretta di voi ascoltatori, poi abbiamo altri argomenti ancora da proporre e da affrontare. Antonio, Napoli, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, io la chiamavo per una domanda sulla Juve. La mia riflessione era questa, che la storia recente e passata dei campionati ha sempre messo in mostra che le squadre venivano vinte quando c'era un organico al cui interno c'erano dei fuoriclasse, il Milan con Ibrahimovic, Thiago Silva, l'Inter dell'anno scorso con Maicon, Milito, Snyder, Eto'o e quant'altro. Mi chiedevo come mai la dirigenza della Juve acquista da un po' di tempo dei buoni giocatori, anche quest'anno Lichtsteiner, Vidal, però eccezione fatta per Vucinic, non c'è il colpo, quello là del grande fuoriclasse che può rovesciare le sorti di una squadra. Purtroppo anche lo stesso Buffon, che in tal senso è un fuoriclasse di livello assoluto, con la difesa che ha davanti a sé viene svilito un po' dall'organico che si ritrova, e non si può sempre fare affidamento su Del Piero. Grazie, l'ascolto per radio. Grazie a lei Antonio. La Juventus ha creduto 2 anni fa di aver preso due, lei li chiama fuoriclasse, io ci andrei pianino. Li chiamerei due grandi giocatori, quelli che oggi si chiamano top player. Si è illusa 2 anni fa di aver risolto tutti i suoi problemi e aver fatto il salto di qualità. Le ricorderà, uno era Felipe Melo e l'altro era Diego. E poi si è visto che né Felipe Melo né tantomeno Diego erano all'altezza di questa fama che era stata gonfiata. Ripeto, soprattutto quella di Diego, e quindi altro che top player. L'esito, insomma, la deriva che c'è stata poi progressivamente, causata dalla delusione, causata dai contraccolpi, dai contraccolpi anche economici, perché questi due giocatori erano costati insieme una 50ina di milioni di euro che sinceramente non potevano essere impiegati meglio. Questi sono errori che nel calcio di oggi ma nel calcio di oggi e anche nel calcio di ieri si possono fare. Io continuo a essere, semmai, però seguo il maestro Galeone e le sue riflessioni di ieri sulla Juventus, e dico che se non è possibile, se i problemi di mercato, di budget, ti impediscono di andare a cercare il top player, faccio per dire Agüero, quanti nomi grossi sono fatti quest'anno per la Juventus che poi puntualmente non sono arrivati. Se c'è la contingenza attuale non ti permette questi colpi, c'era un'altra. Lei è partito dicendo nel calcio, insomma, il calcio tradizionale nel calcio tradizionale si partiva dalle fondamenta, si partiva dalla difesa. E mi pare che una riflessione che, appunto, in assenza di, non potendo comprare grandi stelle, insomma, io avrei forse puntato su qualche operaio specializzato in più, ma di quelli appunto che si occupano di quanto accade da metà campo verso la propria porta e non l'altrui, perché quello è stato il vero problema della Juventus dello scorso anno. Giancarlo ha chiamato dalla provincia di Cremona. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Dica. Però velocissimo. Allora, relativamente alla sua domanda di cosa è cambiato, io credo che di fatto sia cambiato che il presidente della federazione è uscito allo scoperto come mediatore, società più grosse non l'hanno riconosciuto, hanno vinto la loro battaglia e hanno dimostrato che possono fare a meno benissimo della federazione italiana. Non so cosa pensi lei di questo argomento, ma a me è sembrato abbastanza chiaro quello che è successo. Grazie, radio. Grazie a lei. Io credo che sì, cioè hanno cominciato così, poi però mi pare che sia intervenuto il CONI che ha messo una mano ferma sulla spalla della federazione, ha detto in ogni caso non pensiate voi società di poter scavalcare o di poter fare manovre di sorta di questo genere, perché qui c'è il CONI a vegliare, e mi pare che tutto sia invece tornato per il momento nell'alveo. Che tra le società, che tra la Lega e la federazione non ci siano buoni rapporti, non c'è nessuna discussione. In questa fase storica, e questo dura già da un certo periodo di tempo, ma dire che alla fine di questa vicenda ci siano stati vinti o vincitori, boh, io su questo ci andrei molto più pianino. Stefania da Belluno scrive: scusi, ma davvero di nuovo si parla di un portiere dell'Hannover vittima di depressione? A buona memoria Stefania, perché 2 anni fa, ricorda lei stessa che 2 anni fa il loro portiere si suicidò con l'auto per la depressione, e adesso un portiere di questa stessa società che si chiama Miller e che è il secondo portiere è colpito di nuovo da depressione. Insomma, le notizie che arrivano, che abbiamo letto sulle agenzie stamane, sì, confermano questo nuovo caso. Quindi insomma, evidentemente o Hannover, se non vorrei dire cose sgradevoli o troppo banali, ma Hannover non può darsi che non sia una città allegrissima o che non sia insomma, probabilmente non è appunto una città tentacolare, supponiamolo pure, supponiamo anche che fare il portiere sia un ruolo particolarmente impegnativo, e questo spiega che una certa crisi di vocazione che nel ruolo c'è in questi tempi, ma insomma da qui a una stessa società che prima registra addirittura un caso di suicidio per depressione e adesso ne accusa un altro, effettivamente è abbastanza inquietante. Io, sentite, la circostanza non è assolutamente allegra, anzi è tragica, ma visto che parliamo di portieri, durante l'estate, mentre ero lontano da questi microfoni, insomma, è scomparso un signor portiere che si chiamava Andrea Pazzagli, che era un fiorentino del 60 e che molti di voi ricorderanno, perché è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, perché ha giocato a Bologna, a Imola, a Catania, a Udine, a Perugia, a Ascoli. È arrivato al Milan, dove ha giocato 2 stagioni e ha vinto ha vinto 2 Coppe dei Campioni. Ha preso il posto tra i pali per libera scelta di Arrigo Sacchi, il posto niente meno che di Giovanni Galli, e poi ha concluso la carriera a Bologna, a Roma e a Prato. Andrea Pazzagli, che è scomparso a Castiglione della Pescaia il 31 di luglio di quest'anno, oltre che un bravo allenatore e preparatore di nazionali giovanili, e lo era dell'Under 20 federale, e oltre che un signore, era anche un cantautore che si dilettava nello scrivere e nell'interpretare canzoni. In un incontro di qualche anno fa mi aveva regalato un suo CD, e a me sembra giusto, visto che stiamo parlando di tristi destini di portieri in questo momento, ascoltare un frammento di questa canzone scritta e interpretata da Andrea Pazzagli, che si chiama La Panchina. Per quel barbone come una casa, passa le sue notti sdraiato sopra, mentre l'anziano, stanco e sereno, le sue gambe si riposano. Camminarci in bilico e poi saltarla, è un gioco unico per la bambina, in modo diverso, ma tutti amano quella panchina. Due innamorati seduti stretti si sentono chiusi nel loro mondo, mentre un gattino nella sua ombra dorme di un sogno molto profondo. E quella mamma nei suoi pensieri dondola piano la carrozzina, in modo diverso, ma tutti amano quella panchina. E un grosso cane alza la zampa e farla lì è una meraviglia. Sì, possiamo sfumare e ricordare così, con in questa maniera un amico del calcio come è stato in tutti questi anni Andrea Pazzagli. C'è lì un ascoltatore della Spezia che si chiama Simone, buongiorno. Buongiorno Garanzini, guarda, ho avuto un tuffo al cuore quando ho sentito nominare Pazzagli, e oltre che un grande calciatore è stato anche un grande uomo, va bene. Una magnifica persona. Sì, senz'altro. E detto questo, io non avendo potuto ascoltare in diretta la puntata di giovedì in cui era intervenuto Omar Milanetto, che io reputo veramente un signor giocatore, vorrei citare due errori che ha fatto Milanetto nella circostanza. Il primo, di essere stato così, tra virgolette, delicato nell'apostrofare quei che io non mi viene da chiamare tifosi, diciamo quei personaggi che ogni tanto presidiano il parterre delle gradinate, che hanno veramente toccato il fondo dei fondi. Ecco, il primo errore è stata l'eccessiva educazione, il secondo quello di formulare delle scuse assolutamente non dovute, perché anzi avrebbero dovuto farle a lui. Terzo punto, quello che più mi ha amareggiato, il comportamento del presidente Preziosi, il quale, quando si è trattato di prendere una decisione impopolare come quella di esonerare Gasperini, ha tenuto il punto dicendo che le decisioni sono le sue e che se ne assume la responsabilità. Bene, mi sarebbe piaciuto che almeno per riconoscenza nei confronti di un giocatore che comunque, non essendo un amante delle statistiche, non posso dirlo con precisione, ma questo lo lascio ai suoi collaboratori, ma mi pare uno fra i giocatori che ha vinto più derby nella storia dei giocatori di casacca rossoblu, qualcosina in più. Mi sarebbe piaciuto che avesse con lo stesso piglio detto: Milanetto rimane perché l'ho deciso io. Questo lavarsene le mani è stato veramente un gesto poco elegante. Simone, c'è stato, io la ringrazio del suo intervento che condivido in pieno. C'è stato un grande presidente a Genova che dice 25, forse qualche, anche qualcuno in più, tra 25 e 30 anni fa, un giorno davanti a degli eccessi dei suoi ultra, prese una posizione fermissima e disse: basta che lo rifate e mi salutate per sempre. Però si chiamava Mantovani ed era dell'altra società. Questo non perché i presidenti di una società siano migliori rispetto a quelli dell'altra, ma perché diciamo che i presidenti di quello stampo credo che si sia perso per l'appunto l'impronta. Intervallo mercati, non mercati, strade. Ieri si è esibito Giovanni Galeone nella sua personale griglia di griglia scudetto, no? E a sorpresa, a parere mio, ha parlato di un Inter più che di un Milan in pole position, e poi con le altre a seguire nelle file successive, per esempio in seconda fila per lui c'è la Lazio più del Napoli, insomma, diciamo, con una serie di opinioni come sempre abbastanza originali, mai scontate, come nello stile di Galeone. Sentiamo questa griglia di campionato griffata invece da Gianfranco Zola. Ci sono almeno 4 squadre che potrebbero vincerlo. Quando un campionato ha queste premesse diventa molto più interessante. Juve, Milan, Inter e Napoli sicuramente sono quelle che tutti indicano. Sono curioso di vedere la Roma anche, perché hanno un progetto, hanno delle idee anche abbastanza discutibili, però hanno, mi sembra, un progetto. Non è mica un'osservazione da poco, nemmeno questa. Fabio prima ringrazia per l'omaggio a Pazzagli, non è l'unico, anche Fabio Bresciano, anche Davide da Alba, anche Lori da Milano, anche altri ascoltatori. E poi domanda, Fabio, opinioni sulle ali classe 93 del Brescia, che è questo diciottenne che difende la porta del Brescia, che finora l'ha fatto con molto decoro. Ma trovo che a Brescia, a differenza che a molte altre latitudini, sia rimasta una vera scuola di portieri italiani, visto che Viviano sta entrando adesso nella carriera che conta, e da lì arriva, e adesso c'è un altro diciottenne pare di valore, e quindi questo è molto positivo. Rispettiamo però gli appuntamenti, sia pure con un lieve ritardo, e sentiamo che cosa ha scovato per oggi 6 settembre Nicola Filippone. Sembra ieri. 6 settembre 1913. L'Arsenal gioca la sua prima gara ufficiale nello stadio di Highbury, battendo 2-1 il Leicester. L'impianto, il cui nome ufficiale è Arsenal Stadium, ma che è stato sempre identificato con il quartiere dove sorge, ha ospitato le gare casalinghe dei Gunners fino al 2006, quando è stato sostituito dall'Emirates Stadium. Il nome di Highbury è legato anche alla storia della nazionale italiana. Il 14 novembre del 1934, infatti, all'Arsenal Stadium gli azzurri campioni del mondo disputarono un epico match contro gli inglesi. Persero 3-2, ma uscirono a testa alta, guadagnando l'appellativo di Leoni di Highbury. Vero, questa è la storia, che la storia con la S maiuscolo che la racconta. Da juventino, scrive Giancarlo Bini, anziché di top players, temo si debba parlare di flop players, e sto pensando ai vari Thiago, Almiron, Diego, Melo, tutti i giocatori che fanno parte di questa categoria. Vabbè, Bini, ci sono i periodi positivi e quelli negativi, poi forse qualcuno di questi non è neanche quel, non è stato, non sarebbe nemmeno stato quel grande flop. Lo è stato forse in rapporto alle attese, in rapporto alla troppa gran cassa che era stata suonata in precedenza, come spesso accade, in particolare su quella piazza negli ultimi tempi. Roberto Modena, buongiorno. Sì, buongiorno, dottor Garanzini. Mi ritengo il presidente del, per il momento, virtuale Gigi Garanzini Fan Club. Sì. No, mi devo perdonare se non è una svelinata, semplicemente il quale, con la classe che lo contraddistingue, ha avuto modo di ricordare Andrea Pazzagli, ha appena trovato l'occasione per infilarlo dentro, e questo mi fa estremamente piacere. Grazie. No, grazie a lei, dottore. Le chiedevo semplicemente qualche parere, visto che se ne parla talmente poco. Capisco che si deve parlare di chi, delle squadre che più sono seguite in Italia. Mi dica cosa pensa del mio nuovo Bologna. Dunque, se no Bologna la deludo, Roberto, ne so sinceramente pochino. Se lo devo giudicare da come ha cominciato il mercato, con quella gaffe pazzesca su Viviano, direi che siamo combinati male. Poi evidentemente così non andrà, ma insomma credo che quest'anno, così a occhio, ci saranno molte squadre che lotteranno per salvarsi, secondo me più del solito, perché trovo che trovo che l'anno scorso il Bologna ha fatto, fino a due mesi dalla fine, un campionato quasi miracoloso in rapporto alle qualità, e trovo anche che quest'anno molte si siano indebolite, o comunque ci siano molte squadre davvero deboli. Sicché non mi meraviglierei che la lotta per salvarsi coinvolgesse anche Bologna. Poi evidentemente, data la sua passione e le sue belle parole, non gliel'auguro. Van Basten ieri era ospite in Italia, abbiamo visto servizi televisivi, abbiamo visto fotografie con Platini, era ospite a questa gara benefica di golf che si è svolta nel torinese. E Van Basten ha parlato di crisi del calcio italiano, sentiamo. Ma io credo che il calcio italiano è disceso un pochettino, perché ultimamente hanno sempre tenuto il terzo posto dopo la Spagna e l'Inghilterra, adesso mi sembra che hanno perso il terzo posto dalla Germania, quindi non è che secondo me vada bene. Già il fatto che hanno già da anni 20 club, secondo me non è una buona cosa. Hanno perso il terzo posto, il quarto posto dalla Germania, sì, nel senso che adesso è la Germania che manda in Champions una squadra più di noi. Ma non è mica finita, caro Van Basten, nel senso che le due sconfitte incredibili, le due eliminazioni incredibili di Palermo e Roma in Europa League sono già costate di nuovo molto care al calcio italiano di club. Perché? Perché nel frattempo è ulteriormente scesa, grazie a questi due flop contro gli svizzeri del Thun e contro i cechi dello Slovan Bratislava, è sceso ulteriormente il quoziente UEFA, chiamatelo come volete, a vantaggio di Portogallo e di Francia, che a questo punto hanno messo il calcio italiano nel mirino per un eventuale sorpasso anche da parte loro. Pensate un po' a come siamo combinati rispetto a tempi recenti. È in corso, forse si è conclusa da poco, una lezione di Sir Alex Ferguson alla Lewis di Roma. Già ieri erano rimbalzati da questa sua visita romana molti concetti, molte frasi di questo monumento del calcio internazionale. Adesso ne arriva una via agenzia particolarmente significativa, perché insomma si sa che Snyder è stato a lungo nel mirino dello United. Ha appena detto Ferguson: Snyder è un giocatore fantastico, ma è differente da Scholes. Gli hanno chiesto se Snyder avrebbe potuto rimpiazzare nel suo cuore Paul Scholes, che era un giocatore che Ferguson ha sempre adorato, e lui ha aggiunto: poi ho soltanto Xavi e Iniesta nel calcio moderno, sono simili a Snyder, ma io ho altri giocatori che possono stare in quella sua posizione. Sto vedendo se ci sono altre notizie di agenzia. Insomma, intanto ci sono c'è la nazionale di basket, reduce da questa non proprio decorosissima figura nel torneo internazionale, che sta cercando di ripartire dalla Lituania, ma che è bloccata in Italia dallo sciopero della CGIL, quindi dallo sciopero voluto dalla CGIL, quindi non ci sono, per il momento non sono partiti. È andata molto peggio però al nuovo play della Fabi Montegranaro, che si chiama Edgar Sosa, che l'altro anno giocava a Biella, che è rimasto vittima di una frattura della tibia stanotte in un torneo preolimpico a Mar del Plata in Argentina. Grazie a Mauro De Angeli in regia, grazie a Franco Piantanida in redazione. Appuntamento a domani.